Fergal Cavanagh, benvenuti a Southside questo martedì 10 aprile. Che programma che abbiamo per voi oggi? Tutta la musica più bella e più trendy del momento. E adesso possiamo iniziare con la bella musica. Stiamo adesso per ascoltare un gruppo che hanno deciso di ritirarsi dalla scena perché praticamente erano stanchi di girare qua, girare là, fare questo tour, registrare, e hanno detto: questa musica è bella, però questa vita non è tanto bella. Sto parlando del gruppo At The Drive-In, però non dobbiamo preoccuparci più di tanto. Dicono che non è che se ne vanno per sempre, torneranno quando li pare, quando li va, e noi adesso li ascoltiamo con Invalid Letter Department. Outside. The loudest, the most powerful. sound of Moby with Porcelain dal suo album Play. E Moby le teniamo molto vicino a noi su On Southside, perché lui ha registrato il tema del brano Southside, il tema di questo programma. E Moby sta preparando un tour di America, un grande festival quest'estate. È già confermato, per quel festival ci sono gli Outkast e New Order. Sarà proprio un gran bel concerto. Comunque noi andiamo avanti. This is ex cantante di House of Pain, it's Everlast and I Can't Move. Watching the sunshine peeking over the skyline, thinking I gotta get mine, gotta try at least one time. Il matizzatore. Oh, make me over. Look at my face, my name is Mighty Beyond. That's Hole and Celebrity Skin. Hole, il gruppo di Courtney Love. E Courtney Love ha scritto una lettera ultimamente a tutti gli artisti nel mondo dicendo: ragazzi, dovete guardare bene i vostri contratti, perché se no ti rubano i soldi, fate molto attenzione. E poi addirittura un po' di pettegolezzo sta uscendo, sembra, con Russell Crowe del Gladiator. Wow. Comunque, la musica, Show Me the Money, it's Architects. By myself, a Jaguar. I'm a burden, tough guys on a Japanese motorbike. I wanna hold your hand. Hey, what's your favorite band, honey? I wanna look like they look. I wanna shake like they shook. I wanna take what they took. I wanna get you high, but don't ask me why. If it's just something I gotta do, I'll try to make it. And I don't wanna be the Archbishop of Canterbury. Divine Comedy with Bad Ambassador on Southside. È praticamente Neil Hannon, il cantante di The Divine Comedy, è un Bad Ambassador per la città di Londra, perché dice sì, mi sono stabilito a Londra, però abitando a Londra non significa essere più felice, però rimuove l'ansietà. Non mi sento particolarmente a casa mia a Londra, ma se per quello non mi sentivo nemmeno molto a casa mia in Irlanda del Nord. Va bene, comunque The Divine Comedy on Southside and here come Tahiti 80 with Heartbeat. It's not much for you. Won't you forgive me? That's all I can do. Can you feel my heart beat when I'm close to you? 18. Per un'ora Fergal ti proietta nelle nuove tendenze. Southside. Southside. Here we go. One day I know we'll find a place of hope. Just hold on to me. Just hold on to me. Walk tight, one line. You're wanted. There's time. There's no one to blame. Just hold. Place Called Home. E PJ Harvey sta a Polly Jean, sta molto in attività in questo periodo, praticamente è suonato ultimamente a Milano, impegnato con sue tour, e poi sta facendo il grande ospite sul disco di Sparkle Horse, e lei non è l'unica, ci sarà pure Tom Waits, che ha scritto un brano col cantante di Sparkle Horse, e quell'album It's a Wonderful Life uscirà tra poco. Allora la musica, facciamo parlare della musica, and the Mamdo Victims. Hanging around with slakes one time. sexy. Victims with il loro brano nominato The Mambo Victims. E ragazzi, il segreto delle nuove Nissan Micra è Micra Glamour, è trendissima per quello piace ai giovani, è glamour, deliziosa con gli interni eleganti in tinta con la carrozzeria, ed oggi ancora più fresca grazie al climatizzatore incluso nel prezzo su tutta la gamma. Ma se il fresco non ti interessa e hai un usato da rottamare, reggiti forte e ascolta, Micra è tua da 16.200.000 lire. Avete capito il segreto? No, nuovo Micra Glamour, chiedete a chi una Micra ce l'ha già. E la musica, The Orb with Once More. ABS, cinture di sicurezza, servo sterzo, doppio airbag, barre laterali, pneumatici, lisci. Per guidare sicuri, la prima cosa sono i pneumatici. Dal 1 al 30 aprile i controlli sono gratuiti dai gommisti che aderiscono all'iniziativa Pneumatici sotto controllo. Vai su... Oh, That's Bent with their brano Swollen, bellissimo, e che c'ha la voce di Zoe Johnson, che adesso mi pare sta lavorando con Faithless, e Faithless sarebbe il gruppo del fratello di Dido, e quindi è tutto un grande misto lì in quello settore musicale. Ed eccoci ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento di This Day in Music, quello che è successo nel passato, proprio il giorno 10 aprile, e torniamo indietro al 1970 e troviamo ad un concerto dei Doors, Ray Manzarek ha tirato dal palco Jim Morrison, l'ha levato proprio dal palco durante un concerto a Boston, perché Jim aveva urlato all'audience: vorresti che abbassassi la pantaloni? E sapendo che problemi li avrebbe creato, Ray Manzarek ha chiuso proprio il concerto 1970, il 10 aprile. E noi adesso facciamo sentire un bellissimo remix di Riders on the Storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Riders on the storm. Riders on the storm. With Toxic Girl on Southside. E ragazzi, se volete scrivermi, il mio indirizzo email è fergal@kisskissnetwork.it. Aspetto vostra email. Allora, come ho detto, questo si intitola Toxic Girl da Kings of Convenience, però il prossimo brano sicuramente non è di una ragazza tossica, è di Nika Costa, una ragazza molto bella, figlia di Don Costa, e questo brano si intitola Like a Feather, come una piume, che praticamente facevo parte di una pubblicità in America prima della sua uscita, perciò ha avuto molto successo. E caspita come la merita. The loudest, the most powerful. I always knew that I'd not be the one that'd be left. by the thoughts you thought, the things you did, the things you said to me. Now I'm living it up. There ain't nothing bring me down, so don't even try. I'll size you up, I'll size you down, I'll size you around this crazy upturned town that's burning with love and hate and things you can't understand. There's too small or great. Oh, I can't wait for this time to come. I can't wait for this time to come. Stereo MCs and Deep Down and Dirty ci porta alla conclusione di un'altra trasmissione. Allora, this is Fergal Kavanagh saying goodbye. Thank you for listening. L'appuntamento con Southside è domani alle ore 18. Southside. Southside.